Noi abbiamo proposto pochissimi emendamenti per evitare ogni sospetto di ostruzionismo. Invece ieri abbiamo avuto l'ostruzionismo della maggioranza contro se stessa. La maggioranza, divisa e rischiando una rottura clamorosa sull'articolo 91 della legge finanziaria, cosa fa? Mena il camperlaia, prende tempo, ci fa perdere 2 ore di lavoro ieri, ci fa perdere tutta la mattinata di oggi per avere il tempo di mettersi d'accordo su di un emendamento. Questo emendamento viene fuori, non è un emendamento, è un articolo nuovo. Noi chiediamo il tempo di poterlo leggere, esaminare, valutare, discutere come conviene. Non è colpa nostra se la maggioranza prima ha perso metà della giornata di ieri e metà della giornata di oggi e poi dopo viene fuori con una cosa che noi non conoscevamo, non avevamo valutato e che ci rifiutiamo di votare a scatola chiusa.